Garam Masala. Hey. Garan Masala, con Salvo Borrelli e la regia di Roberto Agosta. Garam Masala, il suono del clubbing tra downtempo e uptempo.